Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Quando abbiamo cominciato a cercare storie di persone che hanno cambiato vita, abbiamo deciso di non scegliere una tipologia particolare di cambiamento. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare un catalogo in 2 mesi di tutti i modi possibili e immaginabili per lasciare tutto e ricominciare da capo. E quindi abbiamo cominciato a cercare persone in Italia, nel mondo, a leggere i blog, i social network, i forum, a dirlo in giro e poi ad ascoltare la segreteria telefonica, a leggere tutte le mail, i messaggi su Facebook e vedere in quanti modi si poteva cambiare vita. Una cosa che però non posso negare è che per tantissime persone cambiare vita vuol dire cambiare paese e andarsene dall'Italia. E quindi noi abbiamo sentito tante persone in questi 2 mesi che hanno cambiato vita partendo e scegliendo un'altra nazione in cui vivere. È così. Ora, diciamo, questa incidenza, questa percentuale dice qualcosa su cui forse quando abbiamo 10 minuti di tempo dovremmo riflettere, però non oggi, perché oggi invece abbiamo deciso, quasi per contrastare questa impressione, quasi per, diciamo, non so, una forma di rivalsa, di dedicare una puntata a tutte le persone che invece per scelta hanno cambiato vita venendo a vivere in Italia. E quindi noi oggi questo vi chiediamo: se l'Italia è la vostra scelta, se avete lasciato una vita che magari andava bene, vi dava soddisfazioni in un altro paese per venire a stare qui, chiamateci 800 24 00 24. Carissima. Oh, speak it, speak it! Un osso buco milanese con piselli. Melanzane parmigiana con spinaci. Dove la farmacia? Yes, yes, yes. No, no, no. Sì, sì, no, sì. No, no, no. No, not here. I don't know. Not dove here. La fontana di Trevi? Not here, Otto. Mozzarella. No, not here. Parmigiana. No. Gorgonzola. Ah, quando io ho scoperto questa cosa sono impazzito. Questo è Un pesce di nome Wanda, un film molto divertente, vedetelo, che in italiano ha questo particolare. C'è il protagonista che eccita l'attrice protagonista parlandole in spagnolo, perché lo spagnolo è una lingua sensuale, allora lui dice delle parole in spagnolo e lei perde completamente la testa. A un certo punto ho scoperto che nell'originale inglese la lingua in cui lei si eccita è l'italiano. Lui le dice: ah, dov'è il Vaticano? E lei impazzisce. Ed è una cosa per me incredibilmente significativa, perché noi troviamo esotici gli altri e ci dimentichiamo che per gli altri gli esotici siamo noi, il paese dove andare a vivere, il paese dove cambiare vita. Eccoci qua. Giro di vita, benvenuti. Giovedì, è giovedì oggi, sì, 2 settembre, penultima puntata di Giro di Vita. Mi raccomando, domani non mancate. Io sono Achille Corea e anche oggi noi cerchiamo persone che hanno cambiato vita, ma con questa particolarità. Chiamateci all'800 24 00 24 oppure commentateci su Facebook alla nostra pagina che si chiama Giro di Vita. Kyle, benvenuta. Ciao. Ciao, eccoci. Da dove vieni? Io sono australiana e non parlo ancora molto bene, spero che mi capiate. Purtroppo non posso esprimere bene tutto ciò che penso, ma... No, però partiamo bene. Da quanto tempo sei in Italia? Sono arrivata in Italia 2 mesi e mezzo fa. 2 mesi e mezzo fa mi sembra un ottimo italiano, l'hai studiato prima? Sì, 6 anni fa ho passato 3 mesi a Firenze. Ah, ecco. La domanda è perché? Cioè, tu sai, noi abbiamo della gente che ci scrive, ci manda dei messaggi nelle altre puntate è successo dicendoci: ah, quanto vorrei lasciare l'Italia per andare a vivere in Australia, in quegli spazi, in quel paese meraviglioso. Perché tu dall'Australia sei venuta qui? Ah, ma in Australia qualcuno direbbe che avevo tutto, un appartamento lussuoso da cui si vedeva tutta Melbourne, una città meravigliosa. Lavoravo come caporedattrice per 2 riviste, ma avevo anche tutte le solite cose che hai un paese dove sei cresciuto, amici, la tua madrelingua, famiglia, libertà. E poi avevo un ragazzo bellissimo, fedelissimo, che quest'anno mi ha chiesto di sposarlo, ma sfortunatamente ho dovuto dirgli di no perché non ero ancora innamorata di lui, prevalentemente perché avevo la testa occupata, cioè ero infatuata dell'Italia e fissata del sogno di creare una vita qui. E quindi hai lasciato quest'uomo lì sull'altare per venire in Italia. No, scusa, cosa ti attira dell'Italia? Qual è il motivo che ti fa pensare che questo posto sia meglio di un'altra nazione? Non lo so, io chiedo spesso a me stessa, ma perché sei così innamorata dell'Italia? Infatti non c'è una risposta definitiva. Ma certo, non sono cieca ai difetti che esistono in Italia, ma non credo che sia una società utopistica, posso dire, ma utopistica non lo so, dopo 2 mesi e mezzo in Italia va benissimo, guarda, no, te l'assicuro. No, però da quando ero piccola sognavo sempre di una vita italiana, facevo la pasta a mano a casa, guardavo i film di Fellini, De Sica, Antonioni, Roberto Rossellini e... Alla fine rimanendo... E poi sei venuta qui e hai trovato Muccino, quello è il punto però. No, vabbè, certo. Scusa, ecco, vedevi questi, quindi tu sei cresciuta proprio con l'idea di mi trasferisco in Italia. Come ti sei preparata? Cioè hai trovato un lavoro, sei venuta e hai detto poi mi arrangio lì? Ah no, sono venuto qua e non conoscevo nessuno, non avevo un lavoro, io sono proprio matta per l'Italia, però non lo so, devo dire che l'eleganza italiana è ciò che mi manca in altri paesi, si vede questa bellezza nella strada, nelle piazze. Cosa, tu dove vivi? A Roma. Vabbè, quindi quella è già qualcosa. Sono così eleganti gli italiani come ve li aspettate dall'Australia? Perché a volte ho dei dubbi. Ma c'è un'eleganza in un negozio talmente raffinato come Burgeri, ma anche il mercato sporco e caotico dove compro la frutta ogni settimana, perché anche in questo mercato quelli che ci lavorano mostrano una fierezza impressionante in ciò che fanno. Posso dare un esempio? Un giorno ho detto, ma a proposito, le pesche che ho comprato l'altro giorno non erano molto morbide, e il fruttivendolo mi ha guardato molto dispiaciuto e mortificato e mi ha fatto promettere di dirgli subito, in futuro se anche un'uva sola non è buonissima, non lo so, non si vede questo tipo di apprezzamento del cibo. Questo in italiano si chiama saperci fare, però è saper vendere. Kylie, quanti anni hai? Io ho 27 anni. Ah, ti sei data un tempo? Hai pensato di metterci, sto in Italia un po' e vedo se funziona, o pensi che comunque vada a stare qui? Scusa, non ho capito. Ti sei data una scadenza? Pensi che starai qui per un certo periodo per provarci? No, sinceramente io non voglio tornare mai in Australia, ma se trovassi un altro lavoro, se riuscissi a creare una vita seria qui, sarei veramente una ragazza fortunatissima, dall'altro lato non è solo Italia, perché penso che ognuno sia più sveglio, più vivo, vivendo all'estero, specialmente in un posto dove non conosci nessuno e c'è una lingua straniera, perché ogni momento è una sfida. Ecco, questa è già una cosa, diciamo, l'estero di per sé forse dà comunque una soddisfazione, è un qualcosa, un arricchimento. Va bene Kylie, noi abbiamo una domanda che facciamo a tutti e la facciamo anche a te. La valigia e la zavorra. Allora, dici cosa ti sei portata dall'Australia, non avrai buttato tutto, una cosa che hai conservato della tua vita precedente. Una cosa che porto qui in Italia? Sì. Sì, io porto sempre un sorriso, anche se devi fare finta di essere coraggioso e sicuro di sé, con un sorriso in un paese straniero... Tutti ti possono perdonare. Forse un'australiana di 27 anni mi dirà qualche ascoltatore malizioso. È una cosa che invece hai buttato, che hai lasciato in Australia e non ti dispiace di non avere più? Devo dire che ho lasciato un ragazzo bravissimo, poverino, ma sicuramente lui troverà un'altra più meritevole che non è matta per Italia. Va bene, grazie Kylie per averci raccontato il tuo giro di vita verso l'Italia. 800 24 00 24. Questo stile di vita è sconsigliato se credete che il tipico maschio italiano somigli a Mastro Ianni che guida una Ferrari. Volete trasferirvi in Italia per non usare più cappotti e ombrello. Se vedete un gruppo di italiani che discutono al bar, siete sicuri che stiano dibattendo di regole di eleganza e buoni vini. Pensate che rimanere più di mezz'ora bloccati nel traffico possa capitare solo se ci invadono gli alieni. Vi hanno spiegato che la pizza e il cappuccino sono due grandi specialità italiane. Sì, ma non insieme. Vabbè, la facciamo facile noi, poi andiamo nei ristoranti orientali dove mangiamo roba che mischia il Giappone, la Cina, la Thailandia. Vedo dei messaggi, Kiko si complimenta perché se vado in Australia dice ci metto 2 anni e mezzo a imparare la lingua come lei. In effetti era un italiano meraviglioso per 2 mesi e mezzo in Australia e aveva tanta passione. Quello insomma ci conforta un pochino, vorremmo sentire altre persone così oppure anche altri che sono venuti in Italia e dicono no, mi aspettavo molto meglio. Siamo aperti a qualsiasi tipo di racconto. E se lo facessi io? E intanto per avere un po' uno sguardo su come l'Italia abbia ancora un certo fascino, una certa attrattiva per gli stranieri, sentiamo Aaron Mains, che è uno scrittore, freelance e giornalista che vive in Italia e collabora per il Wall Street Journal. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, non l'ho detto bene, ho visto degli sguardi di là, ho fatto uno street impaperato. Allora, e, insomma, da quanti anni vivi in Italia intanto? Ormai ho perso un attimo il conto, ma saranno orientativamente 13, forse 14 anni. L'hai scelto oppure è stata una, diciamo, un'imposizione lavorativa? Imposizione no, però è stato un po' per caso, devo dire, non intendevo, non immaginavo di finire in Italia. Invece sono finito qui e poi mi sono innamorato e da quel punto non ho potuto lasciare. Dell'Italia o di una persona in particolare? Di un'italiana. Aaron, senti, insomma, noi abbiamo sentito anche la storia di Kylie e abbiamo sempre questa domanda su come ci vedano dall'estero, su come, insomma, pensino che noi siamo il paese di Fellini e Rossellini. E, tu dici, c'è ancora una voglia di venire in Italia come un posto in cui appunto si può, diciamo, far esplodere questa passione per il gusto, l'eleganza, il cibo, la bella vita? Assolutamente sì, anche se il premesso che poi arrivando qua uno prima o poi debba affrontarsi con la realtà del paese, che poi non è tutto pizza e mandolino. Quindi vedo molto spesso nei espatriati che arrivano qui una lodevole e anche un bellissimo passione, magari lo stesso che ha la ragazza australiana con cui parlavate prima. Poi vedo anche dei espatriati che magari hanno passato un po' più di tempo nel paese e perdono in qualche maniera la passione che sfoggiavano agli inizi. Ecco, cosa pensi tu quando diciamo vedi non so gli inglesi, gli americani, gli stranieri che dicono non vedo l'ora di trasferirmi in Italia, e poi vedi gli italiani che non vedono l'ora di trasferirsi all'estero, magari verso quelle stesse nazioni? L'erba del vicino è sempre più verde, no? Penso che secondo me gli italiani scappano delle situazioni che in effetti non promettono bene, soprattutto a livello dei giovani. Hanno più opportunità all'estero, vedono una meritocrazia in Italia che non funziona necessariamente a dovere, e quindi quelli che hanno il coraggio per fare questo salto, perché di coraggio si tratta sempre, vanno fuori e trovano, ma caspita, qui però, nonostante il fatto che non sono nessuno, che sono arrivato da poco, che non conosco granché di gente, non sono un raccomandato, comunque vado avanti, comunque ho delle opportunità, e quindi magari facilita la scelta di rimanere. In tutti questi anni c'è qualcosa che ancora, anzi dopo tutti questi anni, c'è qualcosa che ancora ti fa pensare tutte le mattine, per fortuna sono qui? Beh sì, ogni mattina sarà l'espresso, il marocchino con il latte a parte, che sarà scherzo un po', ma sarà sicuramente il cibo, sarà sicuramente il ritmo di vita che è qui rispetto a noi in America. Soprattutto io vengo da vicino a New York, quindi è un ritmo abbastanza serrato. Qui uno vive bene, ci sono non solo un po' di tempo in più per godersi la vita, ma c'è anche culturalmente l'idea di godere la vita, che si manifesta nelle piccole cose, che sono poi due chiacchiere al bar la mattina, due chiacchiere in più che magari negli Stati Uniti non ci sarebbero stati, piuttosto che passare del tempo piacevolmente insieme con gli amici, anche per una serata, diciamo, lunga, mentre negli Stati Uniti magari sarebbe stato accocciato di più. Insomma, siamo dei gran chiacchieroni, questo è però piacevole. Senti, non c'è mica del male. No, anzi. Senti, c'è invece qualcosa che tu senti sempre dire dagli italiani, tipo, in America non è così, in nessun altro paese è così, fa così, e invece tu poi gli vorresti dire, no, ma guardate che anche in America è così. Ma diciamo che le tasse pesano ovunque. Ecco, quindi. quello c'è. Molte delle cose di cui se devo essere sincero, di cui sento i miei amici italiani lamentarsi dell'Italia dicendo, ma guarda che all'estero non è così, spesso hanno ragione. Spesso è vero che per certi versi l'Italia è rimasto forse con un piede, non dico nel passato, ma magari un attimo rallentato. Ecco, quindi allora una frase fatta che però insomma possiamo continuare a usare. Grazie ad Aaron Mains per averci raccontato la sua Italia. E sì, siamo noi, siamo gli italiani, quelli che tutti vogliono conoscere, vogliono vedere, vogliono venire qua per vedere se siamo come nei film in bianco e nero. E poi, insomma, non so, lo chiediamo a voi, 800 24 00 24, raccontateci il vostro giro di vita verso l'Italia. Sara, pronto? Ciao! Eccoci, Sara, da dove vieni e dove vivi adesso? Allora, io vengo dall'Inghilterra e ora abito a Palermo. Come mai hai scelto Palermo? Una serie di coincidenze, di persone che ho incontrato nelle strade della mia vita che mi hanno portato qui. E ora sono qui per lavoro. Senti, ma prima di... Che lavoro fai intanto, scusa? Lavoro in un'organizzazione non governativa. Lavoriamo qui a Palermo, anche all'estero. No. È un lavoro molto interessante. Sì, però di solito quando uno sente organizzazioni non governative pensa che poi si andrà a lavorare in posti tipo l'Africa, in Asia, nel deserto. Invece sei a Palermo, nel pieno Ma ci sono organizzazioni non governative ovunque, ma qui a Palermo c'è molto da fare, ci sono molte iniziative che si può fare per cambiare la vita. È molto diverso che, suppongo, che nel nord Italia. Quindi lavoriamo tanto qui, ma anche favoriamo sempre lo scambio con l'estero, con diversi paesi dell'Europa, ma anche fuori dell'Europa. Senti, quindi, tu ce li hai gli amici italiani che vogliono andare a vivere in Inghilterra? Sì, anche spesso quello che succede a me è che ho amici qua che sono per la metà anni o vengono dalle Sicilie e poi partono all'estero, quindi rimango senza amici italiani. Ti vogliono partire. Ma tu che cosa gli dici agli italiani che vogliono andare a vivere in Inghilterra perché si sta meglio lì? Gli consiglio che forse il cibo non è buono quanto qui, questa è la prima cosa che dico, ma che anche c'è l'opportunità di lavorare là, che non c'è qui. Quindi quello, dice, da questo punto di vista tu sei una, insomma, hai avuto la fortuna anche di avere il lavoro in una, insomma, una regione in cui ce n'è poco. E, sì. Ma una cosa che quando torni in Inghilterra ti fa effettivamente pensare che stai meglio qui, qual è? Allora, ci sono lati positivi e negativi come sempre, ma sto bene qui perché è un lavoro che mi appassiona tantissimo e anche adoro la vita qua. Quando torno in Inghilterra trovo spesso che è molto più sterile, che le persone non comunicano quanto fanno qui. Tipo, se tu vai su un autobus qua, tutti parlano, tutti si incontrano, tu puoi conoscere tantissime persone. Se vai su un autobus in Inghilterra c'è un silenzio. Quindi c'è questo calore della vita, dello scambio, che per me è molto, molto bello. E non penso che potrei viverci senza, quindi... Sono più o meno le cose che ci fanno andare via, diciamo, sti italiani, questi autobus pieni di gente che parla. Sara, grazie, buon lavoro, buona vita a Palermo. Sentiamo Jalisco. Pronto? L'ho detto bene? Sì, benissimo, bravissimo. 10 e lode. Grazie. Alisco, da dove vieni e dove vivi adesso? Io sono nata a Madrid e abito qui dal 2002 in un paese vicino a Como. Madrid è un altro posto in cui gli italiani non vedono l'ora di andare. Cioè, perché tu sei venuta via? Per amore. Vabbè, però guardate, oggi stiamo proprio, come dire, confermando lo stereotipo dell'Italia che attira grazie ai suoi uomini belli e affascinanti. Latin lover, sì, sì. E cosa fai in questo paese della Lombardia? Io sono truccatrice, però per adesso sto facendo lavori saltuari e poi adesso sto preparando una mostra, perché qui nel vostro paese ho imparato a dipingere, a modellare la creta, a fare incisione, a esprimere, diciamo, nella parte artistica. Ma se non ci fosse il tuo ragazzo, il tuo marito, se non ci fosse il tuo uomo, tu rimarresti qua? Ma io penso di sì, perché dopo di 8 anni, cioè, sono più le cose che mi hanno fatto legare a questo paese, quasi quasi. Poi, sai, il vantaggio che ho è che sono 1 ora e 50 minuti de Madrid a volo, sai? Cioè, sì. Quello è un vantaggio molto, molto grande. Scusa, io so che tu sei, insomma, sei un'ascoltatrice di Giro di Vita, perché ci hai contattato tramite Facebook per raccontarci la tua storia. Sì, sono una vostra tifosa. Grazie. Quando tu senti tutti questi italiani che dicono me ne vado in Spagna, me ne vado a Barcellona, me ne vado a Madrid, ma tu che pensi lì mentre ascolti la radio? Io sono contenta, perché tanto, guarda, l'Spagna e l'Italia si assomigliano moltissimo, caratterialmente siamo molto simili, quando dicono che siamo cugini è praticamente la verità, cioè... Ma se sei così simile, che senso ha andare in Spagna? Guarda, in questo momento è un momento un pochino difficilino, perché a livello lavorativo c'è un po' di crisi come dappertutto, però la cosa che dico io, ad esempio, parlo della Lombardia, che è dove abito io, in Spagna se lavora per vivere. In Lombardia, ad esempio, c'è un ritmo frenetico, si vive per lavorare. Ho capito. La differenza è che in Spagna si gode un pochino più la vita. È tutto uno slittamento, grazie Alice, uno slittamento tra l'America, dove non ti godi niente, in Italia te la godi un po' di più, in Spagna te la godi ancora di più. Pietro, pronto? Sì, buongiorno. Benvenuto, da dove vieni? Io vengo dall'Albania. Dall'Albania. E l'Italia è stata una scelta o una necessità? Non è una curiosità all'inizio, però mi sento un cristiano, dove mi sento che sono rinato per la seconda volta. Hai cambiato? Sono veramente un cristiano vero, ecco. Da quanto sei qui? Io sono partito il 23 agosto del 1993. E cosa fai adesso? Sono partito vestito e mi sono trovato a Brindisi svestito, scusami, in mutande, ecco. Ah, e perché? Praticamente il comune che ero partito era pieno di ragazzi giovani e non giovani, e praticamente i vestiti che avevo ho dovuto togliere perché per non bagnarli, ecco. Quando sono sceso giù a Brindisi, diciamo, al mare, ero senza vestiti, con le mutande, con $20 nel portafoglio. Però lo racconti col sorriso, quindi alla fine è andata bene, l'hai trovata, sì, una nuova vita in Italia. Sono contentissimo che mi trovo in Italia, è un'accoglienza meravigliosa. Va bene, grazie Pietro per averci dato anche questa, diciamo, storia, anche qui invece un po' diversa dal solito, e noi chiudiamo. Penultima puntata, domani torniamo qui e voglio sentire i vostri piani B, ve lo dico da oggi, prenotatevi, Giro di Vita, @radio24.it, 800 28 11 11, la segreteria. Ringrazio Alessandro Chiappini, Fabrizio Intonti, ringrazio tutti voi, torniamo domani. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria, 800 28 11 11.